Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai. La bohème, la bohème, significava felicità. La bohème, la bohème, era la nostra bella età. E nei caffè vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria, dei poveri si sa, ma a dir la verità ci credevamo tanto, tanto che una tela poi si trasformava in un pasto caldo, e tutto senza un soldo intorno ad un camino, l'inverno non c'è più. La bohème, la bohème, vuol dire vivere così. La bohème, la bohème, amare tutti e dire sì. Molto spesso accadeva che al mio cavalletto passavo la notte e disegnavo te, che stavi lì per me per ore ed ore intere, poi alla mattina morti di stanchezza ci trovava il sole e scendevamo insieme tutti e due felici a bere un buon caffè. La bohème, la bohème, aver vent'anni insieme a lei. La bohème, la bohème, non l'ho rivista proprio mai. Quando un giorno per caso mi trovo a passare davanti a una casa, la casa di Montmartre, non vedo più il lilla e tutto sembra triste sopra quella scala, non passa più una tela, ora è tutto nuovo. Io sono un gran signore che muore di dolore e che non piange mai. La bohème, la bohème, sento una voce e penso a lei. La bohème, la bohème, indietro non si torna mai.